Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il riciclo e la sostenibilità ambientale come strumento non solo di rispetto dell'ambiente, ma anche di solidarietà. È l'idea che sta alla base del lavoro di un'associazione padovana, Per il Mondo Onlus, che in Galleria Ogni Santi, vicino alla zona Portello, ha creato un vero laboratorio di riciclo. Di cosa e perché ce ne parla Matilde Bramati, presidente dell'associazione. Matilde, intanto com'è nata questa associazione e che cos'è, che cosa fa? Beh, l'associazione è nata parecchio tempo fa, perché è nata nel 2004, però da un po' di tempo ha cambiato un pochino gli obiettivi, comprendendo appunto che due chiavi importanti dell'aiuto che possiamo dare da qui sono quelli della sostenibilità e della solidarietà. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto che l'associazione si occupa da 4 anni ormai di creare con materia prima e seconda dei piccoli oggetti della bigiotteria, orecchini, collane, spille, queste cose qua, e diciamo quello che le attività, i ricavi di queste attività vengono poi devolute a che cosa? A dei progetti locali che riguardano l'educazione dei bambini in zone di conflitto. Ecco, riciclo di cosa esattamente? Di prodotti plastici, bottiglie, cioè che cosa fate? Dove li trovate anche queste cose che riciclate? E poi che cosa ne viene fuori, insomma, dalla vostra fantasia? Beh, effettivamente diciamo che la fantasia è la base di tutto, perché effettivamente le nostre volontarie si danno da fare a recuperare principalmente bottiglie in plastica, quelle delle bibite, quelle che generalmente schiacciamo per buttarle via. Ecco, non le schiacciate più, portatecele, perché noi dalla plastica di quelle bottiglie colorate riusciamo a ricavare degli oggettini che veramente potranno stupirvi. Quindi un esempio di qualche cosa che avete fatto che ha riscosso particolare interesse? Beh, sicuramente è la linea di orecchini e Bijou Still Life, che riproduce dei fiori autentici, delle orchidee, delle rose, dei narcisi, ma anche fiori molto spettacolari, tipo il fior di vaniglia o l'ibisco, per esempio, che appunto diventano nelle nostre mani degli orecchini piuttosto che delle spille, piuttosto che dei girocollo. Poi però questi prodotti, questi gioiellini, voi li vendete, avete ricavato, che vanno a finanziare, hai detto, alcuni progetti nel territorio, ma anche all'estero. Sì, principalmente all'estero. Noi siamo legati proprio storicamente come associazione alla Palestina e quindi cerchiamo di appunto raccogliere fondi per aiutare dei progetti analoghi a quelli che la nostra stessa associazione svolge poi nei confronti di bambini, perché accanto al laboratorio di riciclo c'è anche tutta una serie di attività sull'educazione e la sostenibilità dedicate proprio ai bambini dai più piccoli. E quindi appunto con i ricavi di tutte queste attività dell'associazione noi andiamo ad aiutare attività di educazione in zone appunto dove i bambini non possono accedere al diritto all'educazione a causa di conflitti come appunto Gaza. A Gaza in particolare noi collaboriamo con il Centro Italiano di Scambio Culturale VIC, che è dedicato a Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni, volontario ucciso qualche anno fa, possiamo ricordarlo? Sì, beh, chiaramente Vittorio Arrigoni è una figura emblematica di quello che veramente è l'impegno nella solidarietà. Scusatemi, ma è una cosa che ogni volta che ci penso mi commuove, per come questo ragazzo ha lasciato tutto per dedicarsi alla testimonianza, perché la testimonianza di quello che avviene nelle zone zone così problematiche come sappiamo essere Gaza, definita da tantissime persone una prigione a cielo aperto proprio per le condizioni di invivibilità e di continui attacchi a cui sono sottoposte queste persone. La testimonianza su queste situazioni è sicuramente uno dei compiti principali dell'informazione. Bisogna sapere che cosa accade, come bisogna sapere che cosa accade anche sulle coste che ci stanno di fronte, che in questi giorni veramente ci stanno ponendo delle problematiche che sembrano irrisolvibili e che invece dobbiamo darci da fare in prima persona per aiutare, per cercare di risolvere. Ecco, siamo partiti da una cosa molto semplice come il riciclo di una bottiglia di plastica per arrivare a questioni di grandissima rilevanza. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo in linea tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Matilde Bramati, presidente dell'associazione Per il Mondo Onlus, un'associazione che parte dal riciclo di prodotti plastici, da scarti praticamente di quello che consumiamo, per creare dei bijou, dei gioielli che venduti poi danno luogo a delle risorse che vengono utilizzate per il sostegno di progetti, abbiamo visto in particolar modo in Palestina. Però non c'è solo questo, ci sono anche un'attività di laboratori con i giovani, con i ragazzini e dei centri estivi, adesso vorremmo sapere anche di questo. Sì, certo, come dicevo, l'attività dell'associazione ha anche questo settore dedicato ai bambini, dai più piccoli, dalle scuole materne. Noi proponiamo laboratori di riciclo per i bambini dai 3 anni in su, dai 3 ai 90 anni si dice in questi casi, ma sicuramente per i bambini più piccoli, perché pensiamo che appunto l'educazione al riciclo, cioè a utilizzare quello che normalmente viene considerato scarto, sia molto importante per insegnare ai bambini che le risorse non sono infinite e che dobbiamo averne il giusto rispetto, quindi trasformare con le proprie mani e dare spazio alla propria creatività utilizzando i materiali più semplici e più umili. E oltre appunto a dedicarci alle scuole, facciamo anche da, ormai questa è la quarta edizione dei nostri centri estivi, e i cui laboratori e le cui attività appunto sono imperniate sul tema del riciclo dei materiali. Ecco, quindi in questi centri estivi fate esattamente questo tipo di lavoro, oltre immagino anche ad altro. Dove sono e quando più o meno iniziano? Alla fine della scuola. Certo, certamente. Allora, quest'anno abbiamo 2 sedi per i nostri centri estivi. Uno è in classicamente nel quartiere Guizza Volta Barozzo. Ci spostiamo quest'anno proprio da via Guizza 43, ci spostiamo in via del Commissario presso Città Solare e inoltre sarà nella sede anche della nostra associazione, cioè in Galleria Ogni Santi al numero 14, e naturalmente dureranno tutta l'estate, quindi dalla fine della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico c'è la possibilità di iscrivere settimanalmente i propri figli dai 3 anni in su fino ai 10 anni più o meno, perché quella è la fascia più interessante. E con noi appunto i bambini realizzeranno laboratori di riciclo e quindi produrranno loro stessi dei piccoli lavori con tutto quanto la fantasia può suggerire. Ecco, allora, dove si trovano poi questi lavori se uno li volesse acquistare, e poi se c'è un sito internet dove si può avere informazioni sulle attività dell'associazione e anche su questi centri estivi? Certamente, il sito è www.perilmondo.org e dove trovate appunto tutte le attività dedicate ai bambini. E la sede per tutto l'anno è Galleria Ogni Santi 14, la sede si chiama VOS, che vuol dire Vittoria Open Source, è uno spazio in condivisione in cui, come dice lo slogan, riciclo e condivisione diventano solidarietà. Possiamo chiudere dando un numero di telefono, anche perché se c'è qualcuno che volesse darvi una mano o venire a imparare a fare questi lavori potrebbe mettersi in contatto con voi? Certamente, avremo molto molto piacere di avere dei volontari che ci danno una mano per raccogliere, per costruire questi piccoli gioielli e fare i laboratori e quant'altro. Quindi il numero di telefono, anche per chi volesse informazioni sui centri estivi, è il 347-668-4744. Grazie. E dal riciclo cambiamo completamente argomento e passiamo alla LIPU. Per aumentare le conoscenze di rondini e balestrucci, specie che arrivano in Italia dall'Africa a primavera ma sono in declino, la LIPU lancia anche quest'anno un'iniziativa per segnalare la presenza di queste 2 specie di uccelli, anche di nidi e colonie, nei giardini di casa, nei prati, negli edifici di campagna o anche nei palazzi dei centri storici. A tal fine il sito web della LIPU pubblica foto e disegni delle 2 specie e dei nidi per aiutare l'identificazione. L'iniziativa contribuirà al progetto Atlante Italiano degli Uccelli Nidificanti in Italia, che ha come obiettivo di ottenere una dettagliata distribuzione delle specie nidificanti nel nostro paese. Partecipare è molto semplice, basta entrare nel sito internet www.ornito.it, ornito scritto con la TH, e iscriversi. Compilando poi una semplice scheda è possibile inserire fin da subito le proprie osservazioni. Infine si terrà lunedì 27 aprile a Villa Arvedi, in provincia di Verona, l'assemblea ordinaria di Confagricoltura Veneto, i cui lavori assembleari saranno affiancati da un convegno che avrà inizio alle ore 17.30 e alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il presidente confederale Mario Guidi, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il parlamentare europeo Paolo De Castro. Il tema è: quali livelli ottimali per la governance e per la politica agricola? Il tema è stato suggerito dalla considerazione che il settore agroalimentare è interessato da un quadro istituzionale molto articolato e complesso che ne condiziona profondamente le strategie imprenditoriali e le linee di sviluppo, con l'intreccio ad esempio fra il livello comunitario, quello nazionale e quello regionale. Diventa quindi sempre più urgente la necessità di far chiarezza in un quadro dove la presenza di troppi punti di riferimento istituzionali rischia di creare disorientamento e di moltiplicare gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole. In questa occasione farà tappa a Villarvedi anche il Roadshow 2015 di ANGA, Giovani di Confagricoltura, un tour nazionale a tappe partito nel novembre scorso per presentare opportunità e iniziative per gli agricoltori under 39. Alla giornata prenderanno parte gli studenti di vari istituti agrari del Veneto. Bene, con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il quadrifoglio. Se ci volete riascoltare ci trovate sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.